Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci di nuovo qui, Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Io sono Enzo Argante, il traghettatore. Questa puntata a bordo abbiamo ospiti d'eccellenza, sono tutti d'eccellenza quando parliamo di economia sociale e sostenibilità, ma questa volta capirete bene perché questa eccellenza ha qualche marcia in più. Il presidente Formigoni dà i numeri, anzi il numero, ed è un 3. Oltre 3 milioni di euro di Argent de Poche per lanciare il progetto, 3.000 euro di buoni in cambio della vecchia auto rottamata, l'impegno a non cambiare auto per 3 anni. Ecco la Mobility Card. L'Europa punta sull'auto pulita, meglio se è elettrica e purché parli la stessa lingua, almeno dal punto di vista delle prese di ricarica. Come deve essere l'auto del futuro? Né più né meno che un cavallo. Ma questa volta il motore non c'entra. Parola di Nevio Di Giusto. Dunque, a bordo abbiamo il presidente Formigoni, il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani e Nevio Di Giusto, che è l'uomo dei grandi cambiamenti tecnologici della Fiat. Presidente Formigoni, intanto grazie di aver partecipato alla trasmissione. Grazie a voi, buongiorno. Voi siete sempre molto impegnati, presidenti, ma quello della Lombardia secondo me in particolare. Allora sentiamo che cos'è la Mobility Card. Dopo il diavolo, ecco l'acqua santa. Dopo l'incentivazione all'acquisto dell'auto, la disincentivazione. Ma niente paura, Marchionne può dormire sonni tranquilli. Nel mirino non ci sono le industrie automobilistiche, ma le vecchie automobili che puzzano e inquinano le città. Il presidente della Lombardia ha messo mani al portafoglio, 3 milioni e 200 mila euro per cominciare, e ha lanciato una proposta fino a poco tempo fa decisamente impensabile. 3 mila euro in mobilità sostenibile in cambio della vecchia auto rottamata a costo e notai zero. C'è di più. 200 euro di incentivo per l'acquisto, questo sì, di una 2 ruote a pedali, se serve anche assistiti. I possessori della carta di credito prepagata dovranno possedere precisi requisiti di reddito e anagrafici e vivere a Milano. Ultimo determinante e coraggioso requisito, l'impegno a non acquistare una nuova auto nei successivi 3 anni. Come si può spendere la piccola fortuna verde? In corse di autobus, treni, metro, ma anche bike e car sharing, oltre che all'occorrenza sui taxi. Provare per credere su www.mobilitycard.it o telefonare all'877 44 55. Bene, presidente, abbiamo dimenticato qualcosa? No. Credo che la cosa sia veramente completa, grazie della scheda che è molto chiara. Per carità, e grazie a lei, perché come abbiamo già detto e ribadito nella scheda, lei ha veramente, come dire, tirato letteralmente il carro davanti ai buoi. Come le è venuta in mente un'iniziativa che è sicuramente la prima del genere in Italia, ma forse anche oltre? Ma come lei sa, sono impegnato, e Regione Lombardia è impegnata da tanti anni in politiche strutturali per combattere l'inquinamento. Abbiamo adottato provvedimenti di ogni tipo. Nel settore della mobilità abbiamo costruito la zona traffico limitata più grande d'Europa, perché per i 6 mesi invernali in quasi metà della Lombardia i veicoli più inquinanti, più antichi, non possono circolare. Abbiamo anche distribuito incentivi per cambiare le vetture, nel senso che i cittadini con il reddito più basso sono aiutati ad acquistare le auto più moderne rottamando l'antica. Pensando poi specificamente alle realtà metropolitane a partire da Milano, ho pensato che appunto la macchina può essere superata in una concezione di mobilità integrata. Si può chiedere ad un possessore di auto vecchia di non utilizzarla più per 3 anni, sperimentalmente si intende, in cambio con questi 3.000 euro gli diamo la possibilità, primo, di usare i mezzi pubblici, normalmente in città si deve circolare con i mezzi pubblici, ma secondo, in caso di necessità, quando uno dice beh, ma a questo momento la macchina l'avrei proprio bisogno, c'è il taxi a disposizione. Ecco, lei ha messo sul piatto, o ha potuto mettere sul piatto, una cifra che ricordiamo di 3 milioni e 200 mila euro. Vuol dire che per il momento Mobility Card è, insomma, né più né meno che un'iniziativa simbolica, ma che ha un altissimo valore educativo, però. Assolutamente. assolutamente sì, anche perché lei tenga conto che ho detto che esauriti questi 3 milioni ce ne saranno altrettanti. È un'iniziativa a getto continuo, soltanto che non vogliamo immobilizzare capitali che magari verranno utilizzati più lentamente, ma se i cittadini che utilizzeranno questa mobility card saranno tanti, tutti avranno a disposizione questo strumento innovativo. Ecco, questo vale sicuramente per Milano, dove diciamocela tutta, Milano è nelle condizioni di offrire un'alternativa pubblica alla mobilità. Purtroppo però in Lombardia non è sempre così. Certo, per spostarsi da un paese all'altro la cosa diventa più complicata. Tenga conto però che in questa direzione stiamo lavorando nell'allargare gli spazi collegati attraverso ferrovie. I nostri investimenti maggiori sono nel costruire nuove linee ferroviarie, nell'acquistare nuovi treni. E poi è chiaro che questo è un discorso che guarda in prospettiva. Cominciamo a non utilizzare più l'auto nei centri abitati e a poco capiremo che l'auto non deve essere un obbligo, non deve essere una schiavitù, ma deve tornare ad essere uno strumento a disposizione insieme a tanti altri. Questo non è chiarissimo, non mi riferisco a lei, mi riferisco evidentemente, ma forse a molti dei suoi colleghi anche di posizione più alta romana, quindi di incombenze più. Non è chiaro che l'automobile è un segmento del sistema di mobilità, c'è una parte piccola o grande a secondo di quello che il pubblico riesce a fare. Lei però mi sembra un cigno bianco in una in una comunità in cui manca l'attenzione sui temi della mobilità sostenibile. Ma guardi, è chiaro che si tratta di cambiare una mentalità, perché sono comportamenti sedimentati da decenni, da miliardi di euro spesi in pubblicità, in induzione di modi di comportarsi. D'altra parte, se vogliamo cambiare l'inquinamento, come se vogliamo costruire condizioni di vita più umane, più gustose, più ricche di cultura per tutti, bisogna veramente sottoporre ad un fuoco di fila di critiche i modi comuni di comportarsi e vedere se non ci siano i comportamenti più virtuosi. In questi anni ho incitato tantissime volte i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici tutte le volte possibili, ad andare a piedi, ad andare in bicicletta, a tenere più bassa la temperatura di casa o d'ufficio. Sono milioni di comportamenti virtuosi che quando diventano abitudine non costano più niente, ma inducono un miglioramento complessivo dell'aria che respiriamo, della città in cui viviamo, favoloso, favoloso. I cambiamenti di mentalità sono i processi più complicati, ma sono anche quelli che mi affascinano di più, perché allora si vede che cosa vuol dire governare, governare seriamente, governare facendosi carico del bene comune di una comunità. Grazie Presidente, grazie ancora di aver partecipato a Ferribot e complimenti. Grazie. Per questa iniziativa. Grazie, buon lavoro a tutti voi. Non è soltanto la Lombardia ovviamente ad avere il privilegio di aprire il fronte della mobilità sostenibile, c'è una precisa strategia anche a livello europeo che passa ad alcune iniziative specifiche che sono. Entro il 2030 il parco automobilistico globale dovrebbe passare da 800 milioni a 1,6 miliardi di veicoli, per arrivare entro il 2050 a 2,5 miliardi di veicoli. Il tutto accompagnato da una carenza crescente di risorse energetiche, i cui costi sono destinati ad aumentare. Queste tendenze devono essere affrontate con un cambiamento radicale nella tecnologia per assicurare la sostenibilità della mobilità nel lungo termine. Nella prospettiva del 2020, i veicoli convenzionali rimarranno prevedibilmente lo strumento dominante della mobilità, ma si assisterà anche ad un rapido sviluppo sia dei veicoli elettrici a emissioni di carbonio estremamente basse, sia delle pile a combustibile alimentate a idrogeno. Il ruolo importante, un ruolo veramente fondamentale in tutto questo ce l'avrà l'Europa. E con noi Antonio Tajani, l'abbiamo prima annunciato, vicepresidente della Commissione Europea. Buongiorno Presidente. Buongiorno. E noi abbiamo segnato come titolo, per intenderci, ma anche perché alla fine della scheda l'abbiamo accennato, che l'Europa c'è un obiettivo elettrico che in qualche modo ci si può porre, diciamo, in tempi brevi. È così? Ma qualche settimana fa la Commissione europea ha presentato un progetto sul futuro dell'auto, una comunicazione che è stata già approvata dal Consiglio competitività una settimana fa, dove si spiega qual è la nostra strategia. Noi puntiamo su due pilastri. Il primo, quello a breve termine, è un miglioramento delle prestazioni ambientali del motore a caldo e strategicamente invece il secondo pilastro punta ad avere auto con motore a freddo, vale a dire punteremo sull'auto elettrica, sull'auto a idrogeno e anche sull'auto ibrida, quindi ci sono più possibilità, ma mi pare che quella che ha maggior impossibilità di essere realizzate, di avere una buona presenza sul mercato a partire dai prossimi anni è proprio l'auto elettrica. Ecco, di questo noi sappiamo che Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Danimarca sono già partiti, diciamo, lancia in resta per aprire questo mercato. In Italia i segnali sono forse un po' più timidi. Ma i segnali sono diversificati, diciamo che c'è stato anche un accordo che ha fatto l'Enel e anche nel corso dell'incontro che c'è stato tra Italia e Francia si è parlato di accordi che vanno verso l'auto elettrica. Ci sono anche iniziative che per esempio puntano a fare di Termini Imerese, una volta che sarà andata via da lì la Fiat, un centro per costruire auto elettriche. È uno dei tanti progetti che sono stati presentati e mi pare un progetto comunque intelligente, e qualora dovesse essere realizzato da parte privati sicuramente da assecondare. Quindi c'è anche in Italia una volontà di andare verso l'auto elettrica, con una serie di problemi da affrontare, perché non dobbiamo neanche nascondere quali sono le difficoltà che devono affrontare le diverse case automobilistiche. Per la Fiat ci sono dei problemi, la Fiat sta già facendo 500 elettriche negli Stati Uniti, quindi non è che manca la tecnologia, ma poi è una questione anche di mercato. Di rapporto, anche di rapporto col territorio, Presidente, no? Cioè il territorio che deve attrezzarsi in maniera capillare per accogliere e per assicurare continuità alla ricarica. Beh, non si può pensare di puntare sull'auto elettrica se contemporaneamente non si lavora per realizzare un sistema di infrastrutture standardizzate che permettano al possessore dell'auto elettrica di poter ricaricare l'auto elettrica all'interno del proprio paese, ma anche andando al di là dei confini. Quindi noi stiamo lavorando per avere un sistema di infrastrutture e un sistema di infrastrutture standardizzato. Milano ha già fatto qualche cosa di importante, perché sta cominciando a dar vita ad un sistema, una bozza iniziale di sistema infrastrutturale che poi permetterà di poter cominciare a utilizzare l'auto elettrica. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci, Enzo Argante, il traghettatore a bordo, ha il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, con cui stiamo parlando del futuro della mobilità in Europa. In realtà concentrandoci su un aspetto, soltanto un aspetto, Presidente, non tutto il futuro della mobilità è delegato alle auto elettriche, però certamente è uno dei segmenti più significativi. Lei ci stava spiegando che il problema è anche di standardizzazione fra paese e paese, fra casa di produzione automobilistica e casa di produzione automobilistica, insomma un lavoro di raccordo che solo l'Europa può fare a questi livelli. Ma stiamo già lavorando per questo. Intanto noi dovremo anche trovare delle regole per l'omologazione delle auto elettriche, che ancora sono omologate come le auto normali, mentre c'è un modello di omologazione per le auto a idrogeno, anche questo già è un primo passo in questa direzione. Poi dovremo lavorare sugli standard, dovremo lavorare anche per esempio sulla questione delle materie prime, che è un tema che riguarda tutta l'industria, ma come ben sapete le batterie hanno bisogno per essere costruite anche del litio, e il litio è una materia prima ad alto rischio, perché si trova soltanto in alcune parti del mondo. Tra cui la Cina, tra l'altro, no? Esatto, noi dobbiamo intervenire anche da questo punto di vista, cioè del commercio, dal punto di vista dell'approvvigionamento. È molto complicato, è un lavoro ad ampio spettro. Però si parte questa volta, cioè non sono solo parole, non è l'automobilina per fare il golf di cui stiamo parlando, ma dall'anno prossimo ci sono automobili in concessionaria, rateizzazione, si parte con le automobili elettriche in realtà. Io sono convinto di sì, già sono stati fatti dei passi importanti, la Commissione europea sostiene questi progetti come sostiene altri progetti del motore a freddo. Ripeto, su due binari lavoriamo: uno per il breve termine, cioè migliorare l'attività dei motori a caldo, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di CO2, ridurre le emissioni inquinanti, tra l'altro oltre a quelle di CO2, ma anche lavorare sul motore a freddo, quindi in prospettiva incrementare la produzione e la vendita, ma anche realizzare tutti gli strumenti necessari perché poi le auto elettriche, le auto a idrogeno, le auto ibride possano essere veramente protagoniste sul mercato. È un progetto che è già partito, ci vorrà del tempo. Le cifre che voi avete presentato nella scheda sono verosimili, mi sembra molto chiaro quello che è stato detto, nel 2050 arriveremo ad avere 2,5 miliardi di auto, mi auguro che una buona percentuale, una buona percentuale sarà di auto elettriche. Grazie Presidente e buon lavoro, ce ne ha proprio bisogno. Grazie, arrivederci. Indubbiamente 2050 sembra una data lontana, però se ci pensate bene, insomma, adesso dipende dalla scheda anagrafica di ciascuno di noi, stiamo parlando comunque di problemi che riguardano da vicino alcuni di noi, ma soprattutto sicuramente i nostri figli. Avete sentito dal Presidente Formigoni qual è il modo di interpretare dalla Regione Lombardia la mobilità sostenibile, avete sentito qual è dal Vicepresidente della Commissione Europea Tajani quella dell'Europa. Adesso diamo un'occhiata al futuro. C'è un detto, ormai proverbiale, di Nevio Di Giusto. L'uomo dell'innovazione nel gruppo Fiat, fedele compagno di avventura dell'amministratore delegato Marchionne, racconta del suo imbarazzo quando i giornalisti gli chiedono: qual è la migliore vettura del mondo? Perché vorrebbe rispondere Fiat, ovviamente, ma potrebbe essere giudicato leggermente di parte. D'altro canto, non può neanche dire che le migliori auto siano quelle dei concorrenti. Allora si diverte a rispondere, tra il serio e il faceto, ma solo apparentemente, la migliore vettura è il cavallo. Già, proprio l'antesignano dell'automobile con le sue quattro zampe, il simbolo naturale di rappresentazione della forza dei motori. Perché non siamo ancora riusciti a mettere nella vettura quel minimo di intelligenza artificiale che ci permette di tornare a casa quando siamo ubriachi. Ecco, non siamo riusciti a mettere nella vettura quel minimo di intelligenza artificiale che ci permette di tornare a casa quando siamo ubriachi, è la frase di Nevio Di Giusto che è qui con noi. Buongiorno ingegnere. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere con noi. Questa scheda è, come abbiamo già sentito, fra sé del faceto, ma insomma, però in realtà non è tanto così. Lei continua ancora a rispondere così alla domanda sulla migliore vettura del mondo o ha cambiato idea? No, continuo a rispondere così anche perché siamo sulla strada, stiamo facendo dei passi verso l'intelligenza artificiale a bordo della vettura, ma siamo ancora lontani. D'altronde, poi lo cito anche in relazione ad altri fatti, al consumo energetico e all'efficienza energetica, piuttosto che al riciclaggio degli scarti e delle emissioni, piuttosto che ancora, se vogliamo, al riciclaggio completo a fine vita del prodotto, no? Ecco. Cioè, raccoglie in sé tutte quelle che possono essere obiettivi strategici che ci possiamo dare. Ecco, lei è il centro ricerche Fiat, quindi è assolutamente dentro la storia straordinaria che sta vivendo il gruppo torinese, però a lei chiediamo di uscire fuori dall'attualità, da quello che sta avvenendo nel mercato mondiale, anche diciamo sulle nostre strade, con l'esplosione dell'ecomobilità, chiamiamola così, e le chiediamo invece una visione un po' più azzardata, un po' più avanti nel tempo. Nessuno è in grado di sciogliere la riserva su quale sarà l'alimentazione del futuro, perché è da lì che parte l'automobile, la nuova automobile. Ma vede, io credo che tutti insieme noi dovremmo salire di un piano rispetto alle domande che ci facciamo abitualmente, cioè quale sarà il tipo di combustibile o il tipo di propulsione che avremo. Dovremmo cominciare a parlare tutti di energia invece che di biocombustibili, piuttosto che di idrogeno, piuttosto che di combustibili fossili. Dovremmo parlare di mobilità invece che parlare di prodotto o di contenuti, perché credo che su questo, anche con la spinta alla visione integrata che dà l'Unione Europea, ci potremmo trovare d'accordo sul fatto di assicurare una mobilità sostenibile alle persone, piuttosto che assicurare quello che può essere una tutela dell'ambiente utilizzando molto meglio l'energia e utilizzando l'energia che c'è. Io credo che nel futuro ci sia la flessibilità nell'utilizzo dell'energia come parola chiave. Non credo agli integralismi, perché un po' di tempo fa c'era la visione integralista che nel 2020 saremmo andati tutti a idrogeno, poi c'è stata l'onda dei biocombustibili. Oggi è qualcosa di più probabile, che si chiama elettrico, ma è una tecnologia ancora in maturazione. Io credo che dovremmo tutti insieme preoccuparci di utilizzare l'energia che ci sarà nella modalità e in modo flessibile, cercando di aprire le soluzioni ragionando va bene sul lungo termine, ma anche su quello che ci aspetta dopo. Forse sul concetto di energia e su dove si trova l'energia che si può anche lavorare. Per esempio, è stupefacente il dato sul 100 milioni di biciclette elettriche che oggi ci sono in Cina, pedalata assistita si chiama, vuol dire che nel momento in cui noi ci muoviamo produciamo energia. Forse anche in questo senso dobbiamo cambiare paradigmi di che cosa vuol dire alimentazione. Vede, io credo che noi sprechiamo un sacco di energia in tutte le cose che facciamo. È impressionante pensare come delle volte l'energia che serve realmente per prendere persone a carico e spostarle è solo qualche punto percentuale rispetto a quello che utilizziamo. Tutto il resto serve a creare attorno le condizioni di sicurezza, di tranquillità, di velocità e di cose che in qualche modo amplificano, se vogliamo, la capacità di spostarsi delle persone. Allora, se invece di partire da quello che consumiamo oggi, partiamo da quello che sarebbe strettamente necessario, io credo che si possano inventare, si possano ripensare tante cose, ma è una strada lunga. Ed è questa la strada che voi state sicuramente percorrendo, solare compreso. Sì, noi abbiamo fatto qualche piccolo esperimento sul solare, crediamo che l'energia solare sia una delle energie comunque rinnovabili che potremmo utilizzare sotto forma di elettricità. Vede, l'elettricità, mi lasci dire, rispetto alle visioni dell'idrogeno piuttosto che dei biocombustibili, ha dei presupposti più solidi, no, di quella visione lì, nel senso che comunque la rete di distribuzione dell'energia elettrica c'è, mentre per l'idrogeno a suo tempo nessuno si è... Bisogna rifarla ex novo. Certo. Esattamente. E questa, quindi, è decisamente la differenza, la può fare anche in termini finanziari. Ingegnere, grazie. Certo, l'automobile del futuro abbiamo appena che cominciato a parlarne, ma qualcosa si intuisce già dalla sua testimonianza. La ringraziamo molto. Grazie a lei. Noi abbiamo concluso questa puntata sulla mobilità sostenibile. Come avete sentito, il futuro è incerto, ma le idee non sono poche. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza in redazione e di Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che Ferribot si può ascoltare anche dal sito di radio24.it. A presto.